Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Istat in Italia 4 milioni e mezzo di poveri nel 2019, in flessione rispetto all'anno prima con l'introduzione del reddito di cittadinanza. Inchiesta Mondo di Mezzo torna in libertà per scadenza dei termini Massimo Carminati, il criminale figura di spicco degli intrecci illegali tra politica e affari. Mafia blitz nel feudo di Messina Denaro, 13 arresti nel Trapanese, indagati il sindaco di Castellammare del Golfo. Tensione tra le due Coree, Pyongyang fa esplodere la palazzina del dialogo intercoreano al confine. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Oggi nuova serie di appuntamenti agli Stati Generali dell'Economia con le associazioni di categoria, ne parleremo tra poco nella giornata in cui l'Istat diffonde il suo dossier sulla povertà in Italia con una diminuzione per la prima volta da alcuni anni a questa parte. Nel 2019 500.000 persone in meno in condizioni di povertà assoluta. Di questo, come detto, parleremo tra poco. Iniziamo invece dalla cronaca e partiamo dalla scarcerazione di Massimo Carminati, uno dei principali protagonisti dell'inchiesta Mafia Capitale. Lascerà il carcere di Oristano, dove è detenuto da tempo Massimo Carminati, uno dei principali protagonisti dell'inchiesta Mafia Capitale. La decisione, secondo quanto anticipato dall'agenzia ADN Cronos in favore di Carminati, è stata pronunciata dal Tribunale del Riesame su istanza dei difensori, gli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri. Carminati torna libero per scadenza dei termini di custodia cautelare. Per i legali, la questione tecnica posta alla Corte d'Appello e che tutela un principio di civiltà è stata correttamente valutata dal Tribunale della Libertà. Nelle prossime ore Carminati lascerà il carcere di Oristano, dove è detenuto da 5 anni e 7 mesi. Per Francesco Giro, senatore di Forza Italia, la liberazione di Carminati è l'ultimo tassello del fallimento capitale, del teorema mafia capitale. Oggi, commenta l'esponente azzurro, si rende palese che per contrastare la criminalità, anche la più efferata, occorre applicare la legge e non stravolgerla con teoremi giudiziari assurdi che, alla fine, colpiscono i diritti di tutti, di una intera comunità civile ed umana, regole comuni e affetti familiari. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari. E fin qua l'operazione che riguarda la scarcerazione di Massimo Carminati. Invece per quanto riguarda la mafia, quella siciliana, c'è una importante operazione da registrare nel Trapanese, nel feudo del boss latitante Matteo Messina Denaro. In carcere è finito il boss locale di Castellammare del Golfo, Francesco Domingo, indagato il sindaco della città, Nicola Rizzo. Secondo gli inquirenti, i boss locali avevano anche stipulato un nuovo patto negli Stati Uniti. Lo chiamano Tempesta ed è ritenuto un pezzo da 90 della mafia trapanese. Lui, Francesco Domingo, è considerato il reggente del mandamento mafioso di Castellammare del Golfo ed è ritenuto molto vicino al boss latitante Matteo Messina Denaro. Per i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Palermo è al centro di un nuovo patto mafioso tra i boss del trapanese e gli affiliati a Cosa Nostra residenti negli Stati Uniti. È quanto emerge dall'operazione dei carabinieri di Trapani, che hanno eseguito 13 arresti, mentre sono state denunciate a piede libero altre 11 persone. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, furto, favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Nell'ambito di questa inchiesta risulta indagato il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicola Rizzo, eletto nel 2018 con una lista civica di centrodestra che si era impegnato, almeno a parole, a seguire la strada della legalità. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trapani. E ora veniamo in Italia, prima di tutto con i dati Istat. Sono quasi 1,7 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, con una incidenza pari al 6,4% della popolazione, per un numero complessivo di quasi 4 milioni e 600 mila persone. Lo rileva appunto l'Istat nella sua statistica sulla povertà nel 2019, aggiungendo che si registra per la prima volta una flessione rispetto agli anni precedenti, un calo dello 0,7% dei nuclei familiari in difficoltà, pari ad una diminuzione di circa 500 mila persone in condizioni di povertà assoluta e in concomitanza con l'istituzione del reddito di cittadinanza. E ora la politica con gli Stati Generali, che sono in corso a Roma, nuova giornata di incontri. Oggi sono ascoltate le associazioni di categoria come Confcommercio e Confartigianato. Allora andiamo a Roma con Giorgio Stamatopoulos. Ciao Giorgio. Ciao, buongiorno, buongiorno Alessio. Allora, a settembre verrà presentato il piano Recovery Italia con una serie di progetti specifici anche sulla base delle risorse che verranno stanziate dal Recovery Fund europeo. Il Premier Conte, secondo quanto riportato da fonti presenti agli Stati Generali, avrebbe aperto con queste parole i lavori di una terza giornata che, come ricordavi, è tutta dedicata a confederazioni, imprese cooperative e banche, aggiungendo tra l'altro anche che l'Italia è il secondo paese in Europa per risorse mobilitate. Il ciclo di interventi è stato aperto questa mattina presto da Confcommercio, CNA e dalle altre sigle del mondo artigiano, poi è toccato al terziario, da Unioncamere a Federdistribuzione, mentre nel pomeriggio toccherà le cooperative e infine al settore del credito, da ABI a Federcasse. Da segnalare la protesta simbolica del sindacalista e attivista Abubakar Soumaoro, che questa mattina si è presentato in catene davanti ai cancelli della villa che ospita l'evento, annunciando uno sciopero della fame per far arrivare al governo il grido di dolore degli invisibili e di tutti gli esclusi, ha twittato Soumaoro, che chiede provvedimenti in modo anche molto dettagliato, ed è il promotore, tra l'altro, come ricorderete, dello sciopero dei braccianti agricoli del 21 maggio scorso contro l'annunciata regolarizzazione del lavoro nero, che però appunto era stata giudicata insufficiente sia da lui che dagli altri membri del gruppo. E per il momento da Roma, Alessio, è tutto. Grazie, grazie a Giorgio Stamatopoulos. Ancora per quanto riguarda la pagina politica, però, dopo la notizia diffusa dal quotidiano spagnolo ABC su un presunto finanziamento al Movimento 5 Stelle da parte del Venezuela nel 2010, emergono in realtà alcuni dubbi sulla veridicità di questo documento, ma il giornalista si difende, dice di aver fatto una serie di verifiche. Sentiamo. Davanti al ginepraio di polemiche scatenate in Italia dall'inchiesta sul presunto finanziamento del regime chavista al Movimento 5 Stelle nel 2010, il quotidiano spagnolo ABC difende la bontà del lavoro pubblicato in esclusiva. L'autore dello scoop, Marcos García Rey, navigato giornalista d'inchiesta e membro del consorzio di giornalisti investigativi che ha scoperchiato la vicenda dei Panama Papers, afferma di aver indagato sui rapporti tra il Venezuela e i 5 Stelle per oltre 3 mesi, garantendo sulla veridicità delle fonti utilizzate. Lo stesso giornalista rigetta le accuse dell'ambasciata venezuelana a Roma, che ha bollato come falso il documento dell'intelligence venezuelana al centro dell'inchiesta, assicurando di averne confermato l'autenticità, compresi i timbri utilizzati all'epoca dal governo di Caracas, attraverso fonti aperte ed altri contatti che da anni coltiva in Sud America. García Rey rivela inoltre di aver previamente contattato i personaggi al centro dell'inchiesta senza però ottenere risposta, non escludendo che la sua indagine possa avere ulteriori sviluppi in futuro. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona. E sulle fibrillazioni all'interno del Movimento 5 Stelle, l'analisi Daniele Biacchessi. Chi comanda nei 5 Stelle? Di Battista, Grillo, Casaleggio, Di Maio o Conte? La questione chiama in causa direttamente il governo del paese e il futuro ruolo del Presidente del Consiglio. La scalata di Di Battista si consuma con lo scontro frontale con Grillo, che lancia Conte a capo del movimento. Del resto, i sondaggi, per quello che valgono, confermano ottimi possibili risultati di un 5 Stelle a trazione Conte. Il Premier si tira fuori dalla mischia, ma il suo cruccio è separare il sisma interno al 5 Stelle dal destino del governo. L'obiettivo di Conte viene condiviso da Grillo, da vari leader pentastellati, anche dal PD, preoccupato delle ricadute del dibattito del 5 Stelle sulla stabilità del governo. Il clima avvelenato e poi alimentato dalle rivelazioni del giornale spagnolo ABC, secondo cui il presidente venezuelano Maduro avrebbe versato al 5 Stelle 3 milioni e mezzo di euro. La strategia di lungo periodo resta la mediazione tra l'area populista e quella filogovernista, la linea sottile che porta il movimento a diventare un partito vero e proprio, con tanto di correnti organizzate, di maggioranze frutto di compromessi e guerre interne che molto hanno a che fare con il potere e poco con il cambiamento del paese. Gli stati generali si terranno dopo le regionali, solo lì ci sarà la conta nel 5 Stelle. E veniamo all'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia. 333 casi positivi registrati ieri, l'85% dei quali in regione Lombardia, 26 le vittime ed è il dato più basso registrato dalla Protezione Civile dall'inizio dell'epidemia, 12 le regioni senza decessi. Invece, per quanto riguarda le indagini nel filone di Bergamo che riguarda la chiusura dell'ospedale di Alzano, ci sono 2 indagati. Sulla mancata zona rossa di Bergamo, che doveva essere istituita tra il 3 e il 5 marzo a seguito della forte crescita del contagio da coronavirus, il sindaco Giorgio Gori si difende. Il primo cittadino dice di non aver subito pressioni dagli industriali, che manifestavano preoccupazioni, ma non imposero la loro volontà. Gori ricorda di aver chiesto in quei giorni che venisse presa una rapida decisione. E intanto sulla vicenda della mancata chiusura dell'ospedale di Alzano il 22 febbraio arriva la conferma dei primi indagati, probabilmente dirigenti del settore ospedaliero. La Procura di Bergamo, oltre alla vicenda dai contorni più politici della zona rossa, sta approfondendo cosa accadde quella notte dopo il rilevamento dei primi due casi di coronavirus. Il responsabile dell'ospedale chiese la chiusura, ma dalla SST di Bergamo Est e poi dalla Regione Lombardia arrivò l'ordine di riaprire. Su come si siano svolti i fatti, la Procura indaga per epidemia colposa. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora all'estero, cominciamo con l'escalation tra la Corea del Nord e quella del Sud. Intorno alle 15 locali, l'edificio di Kaesong, una sorta di sede diplomatica creata dalle due Coree dopo il vertice del disgelo del 2018, è stato fatto esplodere, come confermato da fonti militari del Sud e dalla lunga colonna di fumo visibile da lontano. L'escalation, per ora solo verbale tra le due Coree, si è dunque tradotta in un atto concreto, dopo che i media nordcoreani avevano anche annunciato un ritorno dell'esercito nelle zone demilitarizzate in seguito alle recenti trattative di pace con Seul. Aree da rioccupare che dovrebbero essere proprio quelle attorno Kaesong, liberate dopo il summit del 2018 tra Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, proprio per abbassare la tensione al confine tra le due Coree, che era tra le aree più militarizzate al mondo. Nelle scorse settimane, la leadership nordcoreana aveva mandato messaggi sempre più minacciosi verso Seul, ufficialmente come risposta al lancio oltre confine attraverso dei palloncini di volantini di propaganda da parte di disertori nordcoreani fuggiti al sud, anche se in realtà la reazione nordcoreana sembra dettata dallo stallo in cui sono cadute le trattative di pace tanto con la Corea del Sud che con gli Stati Uniti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La giustizia tedesca ha comunicato ai genitori di Maddie McCain, la bimba britannica scomparsa all'età di 3 anni in Portogallo nel 2007, di avere le prove certe che la bambina è stata assassinata. I giudici tedeschi stanno ancora indagando su un uomo di 43 anni come principale sospettato. E come sappiamo da ieri, con l'inizio di questa fase 3, possono riaprire cinema e teatri. A Bologna lo storico palcoscenico del Duse, davanti a meno di 200 persone, ha visto il ritorno di Gianni Morandi. Beh, siete in pochi, però gli applausi fa rumore, eh? Sono belli caldi, sentivo la mancanza, gli è proprio che noi. Gianni Morandi ha ripreso a cantare dove aveva interrotto la sua tournée prima della chiusura per il coronavirus. Tra gli altri teatri, la Scala di Milano fa sapere di non sarà fatta la prima della Scala il 7 dicembre come è previsto. Il teatro potrebbe riaprire ma all'aperto in estate. Per quanto riguarda invece Roma, il Teatro Sistina riaprirà. Sentiamo il direttore artistico Massimo Romeo Piparo al microfono di Anna Migliorati. In questo lockdown si è parlato molto di arte, spettacolo, intrattenimento dal vivo. Abbiamo, posso dire, nel gruppo degli artisti dello spettacolo dal vivo, abbiamo reso meno pesante e meno proibitiva questa quarantena. Adesso però ci serve un riscontro, non possiamo rimanere online sulle piattaforme dove non c'è nessun tipo di riscontro economico. Noi abbiamo bisogno di ritornare a vivere il teatro vivo dal vivo. Questo è, ci dobbiamo mettere tutti in grande impegno, compresi gli artisti, a non far sì che veniamo adesso relegati a semplici monologhi su un palco o, peggio ancora, teatro in streaming. Non ci sarebbe futuro, dureremmo 6 mesi, dopodiché sparirebbero il 70% delle aziende teatrali. 13 e 14 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, a tra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com. ERP e Digitech per aziende sfidanti. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Istat in Italia 4 milioni e mezzo di poveri nel 2019, in flessione rispetto all'anno prima con l'introduzione del reddito di cittadinanza. Inchiesta Mondo di Mezzo torna in libertà per scadenza dei termini Massimo Carminati, criminale al centro degli intrecci tra politica e affari. Tensione tra le due Coree, Pyongyang fa esplodere la palazzina del dialogo intercoreano al confine. Domani iniziano gli esami di maturità per 500.000 studenti tra autocertificazioni e mascherine. Su Radio 24 lo speciale notte prima degli esami, stasera dalle 9 a mezzanotte. Le 13:19, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, e con noi torna a trovarci Gianluca Dotti, giornalista scientifico. Ciao Gianluca. Buongiorno a te e agli ascoltatori. È collaboratore di Wired, ha seguito sempre molto da vicino tutta la questione naturalmente dell'epidemia di coronavirus, ma anche proprio per quanto riguarda la comunicazione anche dei dati dal punto di vista proprio scientifico. Ieri il vice ministro Sileri ha detto insomma una seconda ondata sembra scongiurata, insomma ci poteva già essere con le riaperture, la fase 2 e la fase 3, non c'è stato. Però in Italia ci sono ancora 300 casi, ieri 303 casi. Per esempio in Cina, con alcune decine di casi, sappiamo che verranno chiusi alcuni quartieri di Pechino, mentre per esempio l'epidemia è ancora forte negli Stati Uniti o anche in India, dove è stato uno stato è tornato al lockdown. Allora molti si domandano intanto se questi casi sono tanti o sono pochi, Gianluca, e poi non è che saranno pochi perché abbiamo smesso di fare controlli, di testare, di fare tamponi, che è la tesi per esempio di Nino Cartabellotta, la Fondazione Gimbe, che è entrato anche in accesa polemica per esempio su un'altra questione con la regione Lombardia. Partiamo dai tamponi, quanti se ne stanno facendo e sono in aumento, in diminuzione, Gianluca? Allora, i tamponi complessivamente stanno rimanendo un numero costante o leggermente diminuendo come trend, eccezione fatta per il dato del lunedì, che è sempre un po' anomalo perché forse per effetto del weekend vengono registrati poi nel bollettino del lunedì un numero inferiore di tamponi, meno della metà di solito rispetto a quelli degli altri giorni. Riguardo al numero di nuovi casi positivi che vengono trovati ogni giorno, certamente il numero che è ancora importante, di alcune centinaia al giorno, ci dice che il virus è ancora in circolazione. Questo è ovviamente un dato di fatto. Allo stesso tempo però non ha forse del tutto senso limitarsi al numero così come viene fornito, ma andrebbe chiarito come si è ottenuto quel numero, cioè quanto è stata solerte la ricerca di nuovi casi tra la popolazione, magari anche tra chi non ha sintomi particolarmente gravi. Ecco, qui sarebbe importante anche che si arrivasse a un chiarimento scientifico sul ruolo degli asintomatici, che nella prima fase venivano additati quasi come, diciamo, i più pericolosi untori, no, di questa epidemia. Adesso invece sembra che le ultime, come dire, dimostrazioni scientifiche lascino pensare che gli asintomatici possano essere, se non addirittura non contagiosi, meno contagiosi. Poi bisogna distinguere tra chi svilupperà i sintomi o meno, ma diventa importante proprio per capire cosa dobbiamo testare anche in vista dell'autunno. Però per tornare ai tamponi, Gianluca, tu dici il numero è stabile, no? Quindi è vero che non c'è stato, chi si aspettava un incremento, una macchina che si mette a regime, investimenti nella sanità, una tecnologia che si affina, un boom di tamponi, non c'è stato. Però è vero anche, ti chiedo, che essendo diminuito il numero di casi, avere tanti tamponi come ce n'erano ad aprile, oggi vuol dire che in realtà il rapporto tra tamponi e positivi è cambiato. C'è più sorveglianza oggi che 2 mesi fa in Italia, o è sbagliato dire questo? Certo, questo è sicuramente vero e ce lo racconta appunto la diminuzione progressiva che ha avuto, se guardiamo l'ondata epidemica nel suo complesso, la percentuale di tamponi positivi rispetto al totale dei tamponi registrati giorno per giorno. Ovviamente questo tema del quanti tamponi vengono fatti con quale metodo è assolutamente decisivo. L'ondata che era, diciamo, temuta subito dopo la riapertura, quindi inizio della fase 2, fase 3, effettivamente finora non sembra ancora essere arrivata, nel senso che i dati, che non solo, solo quelli dei nuovi casi positivi, ma anche delle chiamate in pronto soccorso, dei ricoveri in terapia intensiva, quindi il complesso del quadro dell'epidemia sembra al momento piuttosto tranquillo. Non c'è sta. Un'ultima cosa, Gianluca Dotti, è questa: c'è stata anche una polemica sulla trasparenza dei dati da parte del sindaco di Bergamo Gori, che ha accusato la regione di avere la regione Lombardia di avere smesso di fornire i dati disaggregati provincia per provincia, ma aggregati, e secondo lui questo crea confusione. Al di là di questo, io ti chiedo che cosa sappiamo su questi nuovi dati, su questi nuovi contagi, per quanto riguarda anche l'origine, no? Di questi contagi. Sono code del passato, sono legati alle riaperture. Cosa si sa a livello ufficiale di questi nuovi dati? Questo è un punto che credo sia fondamentale e sul quale effettivamente sappiamo molto poco. Cioè, accontentarsi ogni giorno di avere 2-3 numeri che fotografano la situazione complessiva regionale e pretendere da quelli di capire che cosa effettivamente stia succedendo è difficile. Le fonti ufficiali, ad esempio Regione Lombardia, ci dice che sono in corso dei test di screening sierologico su tutta una serie di categorie professionali, dagli operatori sanitari alle forze dell'ordine. Chi è positivo al test sierologico viene sottoposto a un tampone e quindi emergono da qui dei casi di persone attualmente positive che però magari erano del tutto inconsapevoli di avere in quel momento il virus in corpo. Ovviamente però, se non è comunicato con chiarezza qual è la percentuale di questi casi sul totale dei nuovi positivi che vengono riscontrati ogni giorno, stiamo parlando per grandi categorie, ma non capiamo esattamente qual è la situazione, perché ci fosse anche solo una piccola località in cui anche solo una frazione di qualche decina di casi, certo, potrebbe essere un focolaio. Esatto, e solo, diciamo, ragionando su in generale stiamo facendo screening sierologici, non è forse sufficiente per avere quell'attenzione doverosa che dovremmo avere per monitorare quello che sta succedendo. Grazie Gianluca. Grazie, buona giornata. Grazie a Gianluca Dotti. Adesso invece siamo archiviata per il momento almeno la questione dei dati, della trasparenza dei dati. Chiudete gli occhi e seguite, a meno che non siate al volante, giusto? Se state guidando la macchina, chiudete gli occhi metaforicamente e seguiteci in questo viaggio. Vi portiamo alle 5 terre, prove di ripartenza del turismo. Andrea Ferro. Alle Cinque Terre oggi il colpo d'occhio riporta ad atmosfere ormai lontane, quando questo angolo di Mediterraneo non conosceva il turismo di massa. Ci si veniva fuori dalle rotte convenzionali alla ricerca di scorci e paesaggi, in una successione di borghi appesi nella verticalità di spazi unici. Poi col tempo le Cinque Terre sono diventate una meta internazionale: comitive, crociere, pullman, anche se complicato arrivare via terra, treni stracolmi. Nel 2019 4 milioni di turisti per 4.000 residenti. Oggi appunto è tutto come una volta: coppiette, famigliole sparute in giro per i paesi, quando in una normale giornata di metà giugno sarebbe stato difficile persino muoversi tra la folla. Quasi tutti i negozi hanno riaperto, qualche segnale incoraggiante arriva dalle prenotazioni di luglio. La ripartenza, insomma, è un'incognita, ma forse anche un'opportunità forzata da cogliere per stabilire un equilibrio. Voci e sensazioni tra Manarola e Vernazza, tra bar, alberghi e negozi. E rispetto a una giornata di metà giugno degli anni scorsi, quanto lavoro in meno? In meno, il 98% in meno, perché non c'è proprio gente in questo momento. No, non rimpiango la folla, no, giammai. Anche perché noi con la folla non ci lavoriamo, i nostri clienti sono clienti stanziali che vengono 2-3 notti a godersi le Cinque Terre e anzi sono piuttosto infastiditi dalla folla. Siamo sempre su questo punto, no? Della gente, della troppa gente. D'altronde non si può negare a nessuno di venire a visitare un posto bello come le Cinque Terre, come del resto andare a Venezia o a Firenze. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cinque Terre. Adesso parliamo dell'esame di maturità che inizia domani per circa 500.000 studenti italiani, un anno particolare questo per fare l'esame di maturità. Non cambia il modo in cui invece Radio 24 racconta la notte prima degli esami con Federico Taddia. Ciao Federico. Eccoci qua, prontissimi. Eccoci qua, una puntatona, ho visto avete un elenco degli ospiti che è davvero impressionante, Federico, perché stasera avete voluto esagerare, c'è veramente di tanto, di tutto da ascoltare. Però prima di questo ti voglio chiedere, ma come funziona l'esame di maturità quest'anno, tra mascherine, autocertificazioni? No, dal punto di vista, le aule verranno sanificate, si dovrà igienizzarsi le mani, sì. Si fa la mascherina. Ci sarà molta attenzione, saranno colloqui di un'ora, quindi 60 minuti per ciascun studente, dove dovrà portare, sarà un'ora intensa per questi ragazzi, perché ci sarà la discussione di questo elaborato che hanno dovuto fare in queste ultime due settimane, ci saranno domande su italiano, storia e le materie comunque di indirizzo scolastico, ci saranno anche domande su come si è vissuta la quarantena, nel senso che la ministra ha proprio chiesto anche di introdurre un po' di riflessioni, di suggestioni, sì, appunto, per capire come i ragazzi hanno affrontato questa situazione, perché anche questo ovviamente è segno di maturità. Quindi un'ora intensa e poi l'emozione comunque di rientrare in classe, cioè di rivedere i banchi, di rivedere un professore in carne ed ossa davanti a sé dopo quasi tre mesi. Quindi credo che sarà una bella giostra di emozioni, anche un viatico, speriamo, per la riapertura a settembre. Questa è la prova generale. È vero che l'esame non dura quanto un anno scolastico, però insomma almeno è un segnale che c'è vita su Marte, perché fino ad ora la scuola era stata veramente esclusa da qualunque apertura. Invece voi stasera dalle 9 a mezzanotte, Federico, che fate? Allora, con me ci sarà Eugenio, il cantante dell'Eugenio in Via di Gioia, e tanti ospiti. Partiamo con la ministra Azzolina, poi c'era Guccini, Staviano, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, un po' rappresentanza di tutte le zone più colpite dalla pandemia, perché anche lì ci sono ragazzi e ragazzi che comunque hanno studiato e si stanno preparando agli esami, Carlo Lucarelli, Don Ciotti. Insomma, tanti ospiti racconteranno la loro maturità, ma non solo, perché nelle tante stranezze di quest'annata c'è anche non c'è il famoso tototema, non ci sono le tracce, non ci sono gli iscritti. Quindi, insomma, un'idea è proprio di chiedere a questi ospiti anche qual è la riflessione che vorrebbero suggerire alle ragazze e ai ragazzi se ci fosse stato il tema. Quindi proprio un fantatracce ancora più divertente e più bizzarro degli altri anni. Comunque, tre ore per prepararci a questa ansia, tra l'altro sarà la notte prima degli esami solo per alcuni ragazzi, in verità, perché sappiamo che sono state sorteggiate le lettere domani uno all'ora, quindi sono 4-5 ragazzi per classe, e quindi ognuno poi avrà la propria notte prima degli esami nei prossimi giorni. Grazie Federico Taddia, l'appuntamento stasera alle 9, dalle 9 a mezzanotte su Radio 24 con Notte Prima degli Esami. 13:30, noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. 349-238-6666, monopattini, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. 4 milioni e mezzo di poveri assoluti in Italia, in flessione nel 2019 con l'introduzione del reddito di cittadinanza, dice l'Istat. Inchiesta Mondo di Mezzo, torna in libertà per scadenza dei termini Massimo Carminati, il criminale al centro degli intrecci illegali tra politica e affari. Tensione tra le due Coree, Pyongyang fa esplodere la palazzina del dialogo intercoreano al confine con la Corea del Sud. Caos, monopattini in città, per la prima vittima in un incidente due giorni fa nel bolognese riaccende il dibattito, sbagliato equipararli alle bici, ne parliamo tra poco. 13:38 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Non ci sono messaggi particolari, non ci sono ultime ore, quindi andiamo dritti verso il punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Riaprono i confini interni all'Europa e il turismo spera di recuperare ossigeno. Per l'Italia vale il 13% del PIL e il 6% dell'occupazione. Le previsioni finora sono state catastrofiche e forse il turismo e il suo indotto prezioso legato allo shopping sono il settore che più ha patito il Covid-19. Per l'ENIT, l'ente nazionale del turismo, i visitatori internazionali che pernottano dovrebbero diminuire del 49%, pari a 31 milioni di visitatori, e si tornerà ai livelli pre-virus solo nel 2023. Secondo un'indagine demoscopica statista, il calo degli arrivi si fermerà a quota 29 milioni. In attesa di qualche piano strategico che ponga al centro il turismo nella discussione degli stati generali in corso a Villa Panfili, tocca alle regioni mettere in campo iniziative di rilancio e di promozione. L'obiettivo è soprattutto contare sui 27 miliardi che gli italiani in genere spendevano per vacanze all'estero. Il coronavirus impone l'autarchia turistica e quindi tra le regioni la caccia al viaggiatore esterofilo è già cominciata. Ma c'è anche l'altra faccia del fenomeno. Se perderemo i visitatori esteri, mancheranno 44,3 miliardi di incasso. Parola di Banca d'Italia. Allora, qualche giorno fa nel bolognese a Budrio c'è stata la prima vittima in un incidente che ha coinvolto una persona che stava guidando un monopattino, un sessantenne. E insomma, questo che forse è il primo incidente mortale, almeno di cui diciamo che è balzato alle cronache anche nazionali, che riguarda i monopattini, ha riacceso un po' il dibattito nelle varie città su insomma, come utilizzare i monopattini, come utilizzarli correttamente. Perché intanto saluto Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore, che torna a trovarci. Ciao Maurizio. Buongiorno, ciao. Perché insomma, com'è possibile che da opportunità evocata in tante città, anche in questa fase in cui si immagina difficile tornare a affollare anche a settembre i mezzi pubblici come è avvenuto in passato, parliamo per le città perché chiaramente chi abita in campagna o dove ci sono sali scendi, il monopattino non è il suo orizzonte, ma insomma per le tante persone che vivono in città il monopattino poteva sembrare, può essere ancora, è di fatto un'ancora per muoversi in città, evitare il traffico, ma anche diciamo aiutare proprio l'andamento della mobilità in città, perché rispetto anche solo a uno scooter occupa meno spazio, è molto gestibile e non emette emissioni. Però perché invece si sta trasformando quasi in un problema, Maurizio? Cominciamo da questo aspetto. I motivi sono due. Intanto sta diventando un fenomeno di massa e come tutti i fenomeni quando diventano di massa danno problemi. Il secondo problema è che questo effetto è amplificato in Italia perché siamo notoriamente allergici alle regole, quindi per noi il monopattino è soprattutto un modo per ovviare ai problemi dei mezzi pubblici che non funzionano col Covid eccetera eccetera, però soprattutto è un grande mezzo per fare tutto quello che vogliamo, quindi andare sui marciapiedi, sgattaiolare di qua e di là, insomma dare sfogo a tutta la nostra inventiva e quindi ovviamente se la mentalità delle persone è questa, non diventa neanche più una questione di regole. Cioè tu nel lancio ti chiedevi se fosse giusto o sbagliato, per esempio, equipararvi alle biciclette. Ora, sì, a parte che l'equiparazione è stata solo parziale, quindi la norma è abbastanza equilibrata, ma se poi la norma non riusciamo ad applicarla e tanti la eludono, la evadono, la violano, ed è oltretutto facile violarla perché uno con un monopattino è difficilmente multabile non avendo la targa, allora chiaramente dipende tutto da noi, insomma, questo voglio dire. E questo è un primo punto, no? Un punto culturale importante che rimanda ai comportamenti delle persone, cioè questa trovata libertà di azione che però andrà un po' inquadrata dal punto di vista normativo. Maurizio, come può circolare il monopattino? Tu dicevi l'equiparazione alla bicicletta, ci riferiamo alla liberalizzazione, insomma, a quel passaggio a dicembre del 2019 nel quale il monopattino è stato, diciamo, estrapolato da quella che era la sperimentazione limitata prevista da Toninelli, è stato equiparato praticamente a una bici. Oggi quali sono le regole che deve rispettare il monopattino? Allora, sostanzialmente rispetto a quell'equiparazione è stato aggiunto poi, ed è andato in vigore il 1 marzo, il fatto che l'equiparazione non vale per le strade extraurbane, per cui mentre in bici si può andare tranquillamente su una strada extraurbana, con il monopattino no. Lo si può fare soltanto se questa strada extraurbana è dotata di piste ciclabili, quindi usando la pista ciclabile, cosa assolutamente rara in extraurbano. Quindi è fuori dall'extraurbano, però nell'urbano come va utilizzato esattamente, il monopattino? Esattamente come le bici, con l'unica avvertenza che non si può andare su strade dove eventualmente siano consentiti sia consentito andare oltre i 50 all'ora. Sono le cosiddette strade urbane di scorrimento, sono dei viali particolari dove si può andare fino a 70. Per il resto anche lì obbligo di utilizzare la pista ciclabile quando c'è, altrimenti insomma si circola come quindi le bici. Non sui marciapiedi, tanto per chiarire. Assolutamente no, quello è sempre stato vietato anche se ai nostri occhi è la modalità comune, perché come dicevo prima il paese reale poi è molto diverso da quello legale. Ecco, però poi anche un monopattino che va in strada, che rispetto a una bicicletta ha un'agilità completamente diversa e una velocità anche che è in grado di raggiungere completamente diversa, e questo già pone dei problemi proprio, io direi, meccanici, perché è chiaro che se hai di fronte a te, stai attraversando la strada a piedi o sei in macchina e quindi metti a rischio chi sta sul monopattino, e l'inversione di rotta, di direzione è molto più veloce che rispetto a una bicicletta, e anche la velocità, no? E qui c'è un problema. Sì, c'è un problema, così come c'è anche un problema per chi va sul marciapiedi, per esempio con i pedoni, ed è un problema che secondo me è il più grave di tutti, perché il monopattinista a quel punto non fa da solo, non si fa male da solo, rischia di fare dei seri grandi danni a un pedone, e qui torniamo, anzi si apre un ulteriore problema, cioè questi monopattini non devono essere assicurati, non c'è l'assicurazione obbligatoria, così come non vanno targati, ci sono solo delle assicurazioni facoltative che non a caso le compagnie assicurative stanno cominciando a offrire, però ovviamente non diventa un fenomeno di massa l'assicurazione come invece lo è il monopattino, e quindi rischiate, insomma, siete pedoni, di essere travolti da una persona che poi non ha neanche i soldi per risarcirvi. Ecco. Io aggiungo anche, ti ringrazio Maurizio Caprino, grazie per questi aggiornamenti, aggiungo anche che forse semplicemente un bel casco magari obbligatorio anche per mettere al sicuro chi è sul monopattino, perché nessuno vuole fare una crociata contro i monopattini, figuriamoci, anzi, perché sono un bello strumento di libertà in città. Però visto che cominciano a esserci incidenti che coinvolgono i monopattini e anche delle vittime, forse anche se non c'è un obbligo, cominciare a pensare ad utilizzare il casco forse non è male. Ci fermiamo, Effetto Mondo, tra poco con Giulia Crivelli.